Buonasera a tutte e tutti, questa è Uru, la trasmissione che parla di Africa, del continente africano, musica e qualche suoni e qualche notizia. Cominciamo subito leggendo i nostri social, il sito wombat.noblogs.org, da cui ascoltate la diretta e da cui potete anche scaricare i podcast di tutte le trasmissioni precedenti. Poi Twitter, twitter.com/radiowombat.fi, e anche quello di Uru in particolare, che è uru-rw. E poi la mail per parlare con noi, postawombat@insiberia.net. Allora, abbiamo cambiato l'orario di una replica, quindi ve le ripeto. La diretta è il venerdì sera, ma le repliche sono la domenica mattina alle 10 e il lunedì non più alle 15 ma alle 19, quindi mi raccomando alle 19. Sì, 40esima puntata di Uru, tutta dedicata alla musica dell'Angola, questo grande paese sia da un punto di vista dell'estensione geografica, ma anche da un punto di vista della storia e anche dal punto di vista musicale. E la musica moderna, come moderna intendiamo la musica che si è sviluppata in Angola dalla fine degli anni 50, è stata modellata da una vasta gamma di influenze e anche dalla storia politica del paese, perché durante tutto il XX secolo Angola è stata divisa da violenza e instabilità politica, e i musicisti sono stati fin dagli anni 40 oppressi dalle forze governative. In questo caso, come forze governative intendiamo lo Stato portoghese, la dominazione portoghese, sia specialmente durante il periodo appunto della colonizzazione portoghese. C'è da considerare anche nel corso degli anni la musica angolana ha influenzato Brasile, la musica brasiliana e la musica cubana, soprattutto perché la tratta degli schiavi, di cui uno dei porti maggiori, diciamo, di partenza degli schiavi dal continente africano, cioè, era localizzato a quella che è attualmente Luanda, cioè la capitale dell'Angola. E la stragrande maggioranza dei neri, diciamo, dei neri cubani e dei neri brasiliani sono discendenti appunto degli schiavi che furono deportati dal continente africano e quindi in particolar modo dall'Angola, specialmente in quei paesi, a appunto Brasile e Cuba. In particolare Brasile, perché sia l'area in cui sorge attualmente l'Angola e quella del Brasile erano entrambe sotto la dominazione portoghese. Quindi il fatto che la musica angolana sia fortemente influenzata da merengue, quilapanda, semba, che è, diciamo, la traslitterazione angolana della parola samba, cioè della musica più conosciuta del Brasile, non è che la musica angolana in questo caso è influenzata dalla musica brasiliana, ma bensì il contrario, cioè gli schiavi neri hanno portato la loro cultura e quindi la loro sensibilità musicale dall'Angola, da quella che all'epoca ancora non si chiamava così, ma comunque già era presente, sorgeva questa grande città che attualmente si chiama Luanda, fino al Brasile. E la semba condivide appunto le sue radici con la samba e anche la kizomba e il kuduro, e sono altri due generi musicali che diciamo affondano le loro radici nel ritmo della samba. Sono canzoni con caratteristiche urbane e vengono tuttora suonate specialmente nelle città. E il tema principale sono la vita quotidiana, per esempio il figlio scomparso in mare, oppure le molestie sessuali, in particolar modo tra il capo bianco e la servitù, diciamo, nera, e via dicendo. E quello che vi proponiamo stasera è soprattutto una selezione del periodo, diciamo, va dall'inizio anni 70 alla fine degli anni 70, un periodo importante sia in sé sia perché foriero, diciamo, di quello che poi è stata la musica popolare angolana post indipendenza. E infatti il primo autore, il primo musicista, e vi facciamo ascoltare David Zé, che ha una storia importante della musica angolana. David Gabriel Joseph Ferreira, appunto conosciuto come David Zé, era un corista di una chiesa metodista e che poi successivamente ha preso parte, diciamo, ha cominciato a frequentare gli ambienti dell'internazionalismo e dei movimenti di liberazione angolani, tant'è che lui nel novembre del 70, prima della liberazione dell'Angola, si è trasferito a Sao Tomé, dove appunto prestava servizio nella FAPLA, che era, diciamo, la branca, l'ala militare dell'MPLA, cioè il Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola. Ha iniziato la sua carriera artistica, è iniziata prestissimo, a metà anni 60. Il primo album si intitolava Kadika Zé, e insieme a Urban Castro, Arthur Nunes e Dino Capacupacu è uno dei quattro principali musicisti angolani. È stato direttore musicale dell'FPLP, cioè di quello, e poi successivamente, dopo la liberazione dell'Angola, diciamo la parte culturale dell'MPLA, ed è stato addirittura, su certi aspetti non costretto, però diciamo invitato dal presidente Agostino Neto per partecipare alle celebrazioni dell'indipendenza di Mozambico, Sao Tomé e Principe Guinea-Bissau, dove ha suonato la canzone "Chi ha ucciso Amilcar Cabral". Ricordiamo che Amilcar Cabral era il leader del PAIC, il Partito Africanista dell'Indipendenza di Guinea Capoverde, e purtroppo è morto durante uno dei periodi più bui della storia angolana, un tentativo di colpo di Stato da parte delle forze sostenute dal Sudafrica e dagli Stati Uniti, che ci hanno cercato in tutti i modi fino agli anni successivi alla guerra di liberazione di riprendere il potere e far svanire, diciamo, le vittorie, le conquiste della rivoluzione angolana. E quindi è morto il 27 maggio 77 a soli 32 anni. Di lui ci sentiamo uno dei brani più conosciuti, David Zé con "A Luta Continua". Luta continua. enquanto na Guacabara a opressão em Angola, a luta continua. Enquanto na Guacabara a exploração, a luta continua. O povo está organizado em volta do MPLA. Acabar a exploração, a luta continua. Enquanto o povo de Angola não estiver unido, a luta continua. A vitória é certa. Con l'ampliamento di Luanda, la capitale, praticamente si creano dei museques, come vengono chiamati in Angola. I museque, infatti, è in Kimbundu, la lingua nazionale, vuol dire dove c'è sabbia, in contrapposizione all'area pavimentata. Cioè è lo spazio di transizione tra l'universo rurale e la città. Quindi in questi barrios c'è un ambiente che cerca di preservare le tradizioni angolane marginate dalla dominazione coloniale presente in questi anni. Quello che succede in questi quartieri affascina generazioni di giovani combattenti e ribelli che decidono di creare un proprio stile musicale riprendendo la cultura e la lingua e i temi propri dei museche, cioè di questo qui. La musica praticamente era un modo per loro di combattere senza armi, cioè di affrontare la resistenza. Uno di questi gruppi è i Jovens do Prenda, che prendono proprio il nome da uno dei barrios dove sono nati, cioè i Prenda, i barrios, e di loro sentiamo Ila Virgem. parliamo di un argomento che abbiamo toccato diverse volte qui a Uru, sul fronte della salvaguardia dell'ambiente il 2018 si apre con una, speriamo che sia vera, buona notizia, e cioè che la Cina ha ufficialmente vietato il commercio dell'avorio. Una decisione storica attesa da anni che mira a frenare la strage degli elefanti africani. La Cina, infatti, è da sempre il maggiore importatore di zanne d'elefanti al mondo e fino a ieri assorbiva con il commercio interno il 70% dell'avorio illegale. Un business che ha alimentato le attività dei bracconieri, che ogni anno, ricordo, uccidono 30.000 esemplari di elefanti. In tutta l'Africa ne rimangono circa 350.000, il 90% in meno rispetto a un secolo fa. Ai ritmi attuali, tra 10 anni potrebbero essere estinti. Quindi la decisione del governo cinese, che arriva dopo una lunga trattativa con la comunità internazionale, si spera che contribuirà a un freno ai massacri di questi animali. E continuiamo con la musica dell'Angola. Intanto vi ricordiamo ancora una volta il sito da cui state ascoltando questa trasmissione streaming, in generale tutte le trasmissioni di Radio Wombat. Il sito è wombat.noblogs.org, l'account Twitter è twitter.com/radiowombatfi, il posta elettronica posta wombat @insiberia.net. Ricordiamo anche che Uru, oltre ad andare in replica la domenica e il lunedì, ripetiamo, non più alle 15 ma alle 19, ha anche un proprio profilo Twitter, proprio per non so, che parla non soltanto della musica, ma anche più in generale delle notizie riguardanti appunto il continente africano. E poi Twitter è uru_basso_rw, appunto, come che è quella di Radio Wombat. E ritorniamo alla musica, ai suoni angolani, e ci sentiamo un pezzo che è nel solco della tradizione angolana, anch'esso composto ed eseguito in quel periodo, appunto foriero, insomma, di questa nuova musica che prendeva spunto da quella era la musica popolare angolana, però con cui si innestavano le rivendicazioni, diciamo, e l'aspirazione del popolo angolano, appunto, aveva lottato per l'indipendenza. E ci sentiamo Ferrera do Nascimento con Makongo Me Chiquita. Mama, ndembanga sumbu mama, abersinga sumbu mama, kalolo jongo tambe kamini na indenge wanda la mini na uye, uye, uye, uye mwene, uye, uye, ngitena, mwetu wambote mini na yokeza kumusenga mama, mwetu kwa mbote mini na yoke za kumusenga mama Sayote nga sumbu mama, mini saya nga sumbu mama Ndembango sumbila mama, abersi nga sumbu mama Kalolo jongo tambeka mini na indimi wandala mini na Uye, uye, uye mwene, itena, itena, uye degli anni 70, più precisamente dal 1974 al 1980, è quello caratterizzato dal periodo dal punto di vista musicale Kissanghela. È indiscutibilmente una delle fasi più creative della musica popolare angolana. In questo periodo importante proprio, il gruppo Kissanghela riuniva in un singolo grido diverse voci e cantavano la voglia di libertà e gli effetti dell'emozione dell'indipendenza dell'Angola. Diciamo sotto certi aspetti, anzi sotto tutti gli aspetti, fu la risposta rivoluzionaria e artistica della resistenza alla lunga notte coloniale. Musica e interventi impegnati, canzoni rivoluzionarie, politiche. La verità è che in quegli anni è rimasta nella memoria collettiva degli angolani come un marchio, indelebile sostanzialmente. Cantautore Santos Junior, autore e interprete in quel periodo, è stato uno degli autori e degli interpreti in quel periodo di canzoni veramente efficaci nei suoi intenti politici e quindi con dei testi veramente, veramente importanti, veramente consoni, diciamo, la situazione. E con le canzoni è straniero, è Mungila, che è quella che ascolteremo proprio adesso, è stato uno dei principali autori, principale foriero, insomma, di canzoni politiche e sociali e di un'estetica musicale del periodo della rivoluzione. Ci sentiamo quindi Santos Junior con Ungui Banza Mama. Oh, fondato alla fine degli anni 60, l'Africa Show, il gruppo musicale di cui ascolteremo una canzone adesso, fu il primo dei gruppi angolani a introdurre l'organo nel proprio set di strumenti. Questo cambiamento era inaudito perché nessuno in quel momento nella storia musicale angolana l'aveva mai usato, e specialmente gruppi come loro, che anche loro conservavano forte questo appiglio alle radici della musica popolare. Il gruppo è nato da una associazione nel distretto indigeno del comune di Rangel, vicino a Luanda. Tra i membri del gruppo, il più noto è Carlos Aniceto Vieira Dias, noto anche come Liceu Vieira Dias, che è stato proprio uno dei protagonisti dal punto di vista politico della rivoluzione, sempre dal punto di vista musicale naturalmente, però anche lui è stato uno di quelli che nelle canzoni metteva sempre testi politici e è uno di quelli che si è battuto sempre contro il colonialismo e per la liberazione angolana. Di loro ci sentiamo un pezzo, quindi Africa Show, Massanga Mama. Por na lua no andar. decreto che autorizza l'invio di militari italiani in Niger è stato votato dal Parlamento. Se fosse stato qualche anno fa, ci sarebbero state manifestazioni, politici che avrebbero gridato alla violazione della Costituzione, dibattiti in TV e polemiche sui giornali. Niente di tutto questo. Eppure il mandato e le regole d'ingaggio con il quale l'Italia invierà circa 500 militari nel paese africano sono molto meno stringenti di quelle con il quale abbiamo inviato soldati in altre parti del mondo. In sostanza, al di là delle dichiarazioni alla stampa degli esponenti del governo, i militari italiani andranno al seguito dei francesi che sono in Niger per difendere i loro interessi strategici, cioè lotta al terrorismo e soprattutto, e sottolineo soprattutto, la difesa delle mega installazioni per l'estrazione dell'uranio nel grande deserto del nord da parte della multinazionale francese Areva. La Francia, infatti, in questo caso può parlare di interessi strategici. La politica energetica di Parigi si fonda sul nucleare e l'uranio nigerino è fondamentale per far funzionare le oltre 50 centrali nucleari francesi. Gli interessi strategici per l'Italia cosa sono? I migranti. Vogliono abbassare i confini europei e chiudere quella parte di rotta mediterranea che passa dal Niger, cosa che i francesi fino ad ora non hanno mai fatto. E poi magari chiuderemo la rotta che passa da Agadez, ma per esperienza si sa che chiusa una rotta se ne apre un'altra, di solito più costosa, più lunga e più pericolosa per i migranti. Come dimostrano le partenze riprese dalla Libia in questi giorni, nonostante il muro eretto dagli italiani nel Mediterraneo con la collaborazione delle milizie libiche. Tutto questo per dire che questa volta la missione italiana è ancora più senza senso, anche se senso non ne ha nessuna. Il prossimo pezzo è un pezzo degli Oscombos, Oscheses, che è un gruppo che si è formato negli anni 60 da giovani di famiglie umili. Inizialmente hanno animato i party di quartiere. Dopo appunto sono diventati famosi, almeno nel vicinato, diciamo, comunque un po' più in là del vicinato, e poi successivamente fino a ottenere riconoscimenti nazionali. Motivati alla passione per i ritmi appunto dell'Angola, della musica popolare angolana, la loro musica, a differenza di altri gruppi abbiamo gruppi o musicisti o singoli abbiamo ascoltato fino adesso, più pesantemente influenzata dagli stili musicali congolesi. È un paese, un grande paese dal punto di vista dell'estensione, comunque un paese limitrofo all'Angola, e oltre ad assorbire, essere influenzati dai ritmi musicali congolesi, hanno anche assorbito le linee melodiche di gruppi nazionali come Negrero, Sto Ritmo, Musangola, Gingas e via dicendo. Comunque, nonostante queste influenze, la band non ha perso la sua originalità in termini di ritmi, rendendola una dei più importanti, dei più grandi, dei più conosciuti, almeno all'interno del proprio paese, interpreti della musica popolare urbana dell'Angola. Lungo il loro percorso, lungo la loro traiettoria musicale, sono stati autori di canzoni portatrici di temi importanti, anche come per esempio la lotta alla povertà, che hanno segnato un po' la vita degli angolani sia precedentemente all'indipendenza dell'Angola che successivamente, proprio perché pur essendoci stata l'indipendenza, l'Angola è stata continuamente c'è stato un continuo tentativo da parte delle forze più reazionarie, diciamo, mondiali, in particolar modo gli Stati Uniti, ma soprattutto il Sudafrica. E hanno avuto una carriera molto, molto lunga, e i maggiori esponenti sono stati il percussionista Michele Antonio da Silva, conosciuto come Kitucci, e il chitarrista Adolfo Coelho. E di loro vi facciamo ascoltare uno dei pezzi più conosciuti, più importanti e più cantati anche da parte della gente, diciamo. Si intitola Convoglio, sono gli Os Chiesos. Parlando di Angola, non poteva mancare di consigliare questo libro, che merita veramente. È un libro di Kapuscinski, il titolo è Ancora un giorno, è di Feltrinelli. E praticamente Kapuscinski è nel 75 a Luanda, durante la guerra, praticamente l'assedio di Luanda da parte dei sudafricani, perché per inquadrare un attimo la situazione, l'Angola, dopo aver raggiunto l'indipendenza, è stata invasa dal Sudafrica, è stata attaccata dal Sudafrica con l'aiuto degli americani voleva evitare di avere, visto che in Sudafrica era apartheid, voleva evitare di avere accanto a sé un paese, perché loro avevano già la Namibia, voleva evitare di avere un paese di ispirazione marxista, come era allora il Fronte di Liberazione, e quindi l'aveva attaccata. Praticamente Kapuscinski nel 75 era lì in Angola lui ci parla praticamente di prima quando è a Luanda, in questo albergo a Luanda, ci racconta un attimo la situazione con i portoghesi che scappano con tutte le masserizie accatastate in scatole di legno per scappare e tornare in Portogallo, ma anche come la gente è impaurita da questo alone di questi sudafricani, avessero paura che Luanda sarebbe stata presa. Un grosso aiuto all'esercito angolano gliel'ha dato Cuba. Cuba ha inviato tantissimi militari, infatti ancora oggi gli angolani, se parli di Cuba, cioè sono proprio entusiasti, perché per loro è stato molto importante. E questo libro praticamente parla un attimo, parla di Luanda, della situazione di Luanda, con la scrittura solita di Kapuscinski, quindi delle persone che incontra, che cosa sta succedendo, eccetera. Poi addirittura lui trova in modo, attraverso conoscenze, di andare al fronte. E qui c'è un episodio molto bello, che è la foto che è sulla copertina, molto bello e triste nello stesso tempo, perché praticamente come scorta a lui e a un altro, mi sembra, gli fa da scorta una giovane ragazza, che però guerrigliera naturalmente, che però combattente, era riconosciuta da tutti come una grande combattente, e quindi lui gli fa questa foto che è nella copertina. Ora non vi racconto tutta la storia, comunque mi raccomando, leggetelo, perché è veramente un bel libro che ha il pregio di raccontare un pezzo di storia sconosciuto ai più. Quindi Kapuscinski, ancora un giorno. Sì, volevo dare alcuni altri elementi per inquadrare un attimo, seppure in poche parole, questa travagliata traiettoria politica, sociale dell'Angola. Quindi dopo una lunga guerra di liberazione, cui leadership dal punto di vista dell'organizzazione era l'MPLA, cioè il Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola, che a sua volta aveva costituito un braccio armato, l'FPLA, Forze Popolari di Liberazione dell'Angola, a cui avevano partecipato non solo come compositori, come sostenitori culturali, ma anche proprio da un punto di vista militare. Alcuni dei musicisti abbiamo ascoltato, in particolare David Zé, quindi appunto all'immediata, praticamente il giorno dopo, due giorni dopo del compimento della rivoluzione guarofana in Portogallo, cioè nel maggio del 74, un po' perché appunto la rivoluzione De Garofani aveva posto fine al regime dittatoriale portoghese, e un po' e soprattutto perché la lotta di liberazione dell'MPLA era quasi riuscita a liberare quasi tutta l'Angola, a parte poche città, anche se soprattutto Luanda. Quindi immediatamente all'indomani della rivoluzione De Garofani, in maggio 74, l'Angola ottiene l'indipendenza e sostanzialmente è un paese libero, è un paese con una propria capitale, la propria istituzione, un paese liberato. Ma succede che proprio confinante nella parte meridionale del paese si trova la Namibia, che seppur tuttora attualmente indipendente, ma un'indipendenza che si è sviluppata e avvenuta soltanto all'inizio degli anni 90, la Namibia in quel periodo era la Southwest Africa, cioè l'Africa del Sud-Ovest, completamente soggiogata, colonizzata, utilizzata, è proprio il termine più adatto, più utilizzata, perché la Namibia ha un sottosuolo praticamente pieno di oro e di diamanti, era diciamo territorio sudafricano. Quindi proprio lì sul fiume Ruvuma, il fiume Ruvuma che anche attualmente fa da confine tra la Namibia e l'Angola, sostanzialmente fino a lì arrivava la Rhodesia, come allora si chiamava, cioè non la Rhodesia, arrivava da un lato la Rhodesia, era l'odierno Zimbabwe, dall'altro lato la Namibia era l'Africa del Sud-Ovest, comunque entrambi facenti parte della sfera di influenza sudafricana. L'indipendenza dell'Angola faceva sì che creasse pericoli, una sorta di emulazione, comunque un retroterra per i guerriglieri della Southwest African People Organization, la SWAPO, che appunto namibiani che stavano per tentando di liberare la Namibia dal gioco sudafricano. Unita a ciò c'era l'importante o ancora più importante ragione da parte del punto di vista del Sudafrica, cioè che anche l'Angola è piena di miniere, di oro e di diamanti in particolare. Quindi l'Angola, insieme a due organizzazioni controrivoluzionarie angolane, cioè l'UNITA e la SWIPA, MIPA, e con l'apporto determinante da parte degli Stati Uniti, invade l'Angola fin quasi ad arrivare a Luanda, e lì appunto si trova Kapuscinski, riallacciandosi a quello detto precedentemente, la storia dell'assedio di Luanda e poi successivamente la storia della controffensiva, seppur romanzata chiaramente, comunque da un piccolo episodio comunque si capisce della controffensiva dell'esercito angolano, dell'esercito rivoluzionario angolano. E detto questo, vi facciamo ascoltare l'ultimo pezzo per stasera, che è un pezzo di Manuel, Kim Manuel o Spirito Santo. Il pezzo si intitola Emelelu ed è sempre di quel periodo lì, appunto quel periodo che va dalla metà degli anni 70 fino alla fine degli anni 70, che è uno dei periodi più fecondi dal punto di vista musicale e compositivo per la musica angolana. Quindi Kim Manuel o Spirito Santo, l'ultimo pezzo qui per la 40ª puntata di Uru, che l'ultimo pezzo si intitola Emelelu. La mama saki di la tili mweni watalio hadize eni atalio hadize emesele lunga kulue saki di la mama saki di la tiyo yo eni atalio eni atalio eni atalio naye. Belaze, sakiti la mama, sakiti la tili ayo, ene atale ohad, ene atale ohadize, ene atale ohade. Yes, a little wakulue, sakidi la jeye. Yes, a little udi yalawe, sakidi la jeye, sakidi la diaye, sakidi la manyenwe. Enu atale oho hadise. E questo era l'ultimo pezzo questa sera. Ci rivediamo, ci risentiamo la prossima settimana. Vi ricordo le nostre repliche: la domenica alle 10 e il lunedì è cambiato, non più alle 15 ma alle 19. E mi raccomando, se volete comunicare con noi, postawombat@insiberia.net e il profilo Twitter di uru-rw, wombat.noblogs.org, con il menu podcast per riascoltare tutte le puntate precedenti. Ciao a tutte e tutti.